Mi prendo l'incarico di rispondere a questo interrogativo, perché sento fin troppo spesso ringraziare Dio, perché Egli risponde sempre alle nostre preghiere. Un atteggiamento del genere riveste, apparentemente, molta spiritualità. A mio avviso, però, esso è molto più deleterio che positivo. Innanzitutto, condivido appieno ciò che ha scritto James A. Mintz nel suo libro, tradotto in italiano, con il titolo «Gioia nel dolore, coraggio nella crisi». Egli racconta l'esperienza vissuta con la morte della moglie, causata da un tumore. Ho presenziato a tante riunioni di testimonianza e non ho sentito qualcuno affermare che Dio lo aveva deluso. Tutti sostenevano che egli aveva risposto alle loro preghiere, supplito ai loro bisogni e accordato loro delle benedizioni inaspettate. Non c'era neanche una persona disposta ad ammettere di avere avuto l'impressione di essere stata abbandonata da Dio, di avere pensato che egli le avesse voltato le spalle e che avesse deluso le sue aspettative. Quanta confusione avrebbe generato nell'assemblea ammissioni di tale tipo? Ci si preoccupava di salvaguardare la buona reputazione di Dio tacendo queste sgradevoli realtà. Molta parte delle nostre convinzioni religiose è traboccante di sentimentalismo e carente di contenuto teologico. Spesso insegniamo agli altri quello che ci piace credere invece di affrontare la realtà. Una strofa di un inno che viene spesso cantato durante le riunioni dice: «Ai tuoi bisogni, egli provvede. Dio ha sempre cura di te. Ciò che gli chiedi mai te lo nega. Dio ha sempre cura di te». L'ho cantato molte volte, fin dall'infanzia, ma oggi non mi sento più di cantarlo. Dire «ciò che gli chiedi mai te lo nega» è una menzogna. Parole crude ma sagge, corrispondenti alla realtà. Io non sono rimasto deluso da Dio perché per rimanere deluso occorre prima essersi illusi ed io non sono cresciuto in un ambiente nel quale si insegnasse che ogni preghiera rivolta a Dio venisse esaudita. Ho comunque realizzato che Dio è meno prodigo di quanto non pensassi. Per questo voglio confermare il pensiero di Mintz, considerando che Dio non solo non risponde sempre alle nostre preghiere, il sempre non va bene, perché è assoluto, ma risponde molto meno di quanto noi pensiamo. Questo almeno per tre motivi. 1. Non è vero che Dio risponda sempre alle nostre preghiere. 2. Non sono le nostre preghiere ciò che Dio porta a compimento. 3. Molte risposte non sono esaudimenti alle nostre preghiere. Prendiamo in esame ogni aspetto. 1. Non è vero che Dio esaudisca ogni preghiera. La Scrittura mette in risalto che, per essere esauditi nelle proprie richieste a Dio, vi sono delle condizioni. Mi limiterò a citarne 4. 1. Salmo 66, 18. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Per essere esauditi occorre avere purezza d'intenti. Dato che il nostro cuore è insanabilmente maligno, l'ostacolo più grande all'esaudimento sta in noi. Si può chiedere di servire Dio a tempo pieno per non incontrare le normali difficoltà offerte da un ambiente di lavoro. Si può pregare per la guarigione per non soffrire dolori fisici. Si può chiedere la pace per non dover lottare per la fede. Simili richieste non salgono alla presenza di Dio. 2. Proverbi 28, 9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Per essere esauditi occorre essere coerenti. Vi sono credenti che hanno ardore per le anime ma sono disonesti negli affari. Una simile condotta disonora il nome di Dio, impedendo l'esaudimento della preghiera. 3. 1 Pietro 3, 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna. Come a un vaso più delicato, onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia, della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Per essere esauditi, i mariti devono onorare la moglie. Non sono pochi i mariti che desiderano servire il Signore e trattano male le loro mogli. Onorare la moglie significa riconoscere in lei le sue virtù. Non solo. Il marito onora la moglie anche quando avrebbe motivo di arrabbiarsi, ma si contiene. Un marito, insensibile verso la moglie, non può aspettarsi l'esaudimento alle sue preghiere. 4. Giacomo 1:6-8. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti, generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Per essere esauditi dobbiamo credere che Dio mantenga quanto ha promesso. Questo comporta da parte del credente un impegno serio per conoscere tali promesse. Si sa che non ciascuna delle promesse contenute nella Scrittura è valevole per tutti. Giacomo non fa distinzione però riguardo alla promessa della saggezza, affermando che Dio la dona a tutti. Generosamente. Non solo la dona, ma anche abbondantemente. Il dubbio impedisce quindi l'esaudimento delle preghiere. Queste dunque sono alcune fra le condizioni per essere esauditi da Dio. Non è perciò vero, come alcuni insegnano, che Dio risponde ad ogni preghiera con un sì, o con un no, o con un aspetta. Anche la preghiera più fervente, se non rispetta queste condizioni, non è ascoltata. Geremia 11:11. 14:12, Ezechia 8:18, Giacomo 4:2-3, né tanto meno esaudita. Esaù chiese con lacrime di essere benedetto, ma non fu esaudito, Ebrei 12:17, perché aveva trasgredito almeno tre principi. Nel suo cuore aveva tramato del male, non aveva ascoltato le parole di Dio, non vi aveva creduto. 2. Quando il Nuovo Testamento interpretiamo gli avvenimenti Nuovo Testamentoi come risposte di Dio alle nostre preghiere, spesso non sono quest'ultime ADSRST Antico Testamento esaudite, ma assolta Nuovo Testamento, i suoi piani. Precede Nuovo Testamento e Nuovo Testamento stabiliti, e a suo tempo mandantico testamentoi a di effetto. Per comprendere questo aspetto occorre partire da un presupposto. Noi tutti abbiamo una natura corrotta ed insanabilmente malvagia. Per questo ogni nostra richiesta fatta a Dio ha, sempre, un contenuto di proprio interesse, di vanto, di orgoglio. Dio ha rimediato a questa lacuna dando ai suoi figli lo Spirito Santo. Come disse Paolo, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo il volere di Dio. Romani 8:26-27. Occorre molto tempo ai figli di Dio per convincersi che essi non sappiano veramente pregare nel modo a Dio gradito. Alcuni, ascoltando altri pregare, pensano che questi sappiano farlo meglio di loro, sentendosi così scoraggiati nel ministero della preghiera. Ma è una opinione puramente umana. Se vi fosse la convinzione che nessuno sappia proferire preghiere adatte davanti a Dio, come di fatto la Scrittura stessa afferma, allora si pregherebbe correttamente confidando solo nell'azione dello Spirito Santo, guidati da una lettura sottomessa, fiduciosa ed attenta della parola di Dio. Solo allora il cristiano ripieno della volontà di Gesù Cristo potrà chiedere ed ottenere ciò che rientra nei progetti di Dio. Gesù disse: «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto». Giovanni 15:7. Il sé di Gesù è categorico. Le preghiere esaudite sono quelle che rientrano nei piani di Dio. 3. Ciò che supponiamo essere risposte alle preghiere molto spesso sono solo e Nuovo Testamentoi che dovevano succedere. Ricordo la testimonianza di un uomo di Dio, il quale, quando era un ragazzino, vide un predicatore con una tale barba che subito si mise in preghiera chiedendo a Dio di poterla avere anche lui. Pregava con ardore e ogni giorno andava davanti allo specchio per vedere se Dio lo avesse esaudito. Arrivò all'età della pubertà e il suo desiderio fu automaticamente esaudito perché ha raggiunto il periodo dello sviluppo. Attribuire la crescita della barba a Dio sarebbe stata una vera follia. Molte sono le preghiere di tanti figli di Dio simili a questa. I bambini sono influenzati e i genitori chiedono a Dio di guarirli. Finito il suo normale decorso, la febbre lascia i bambini e i genitori ringraziano Dio per essere stati esauditi. Oppure intraprendono un viaggio e pregano perché tutto vada bene. Arrivati a destinazione sani e salvi, ringraziano Dio per l'esaudimento delle preghiere. Credo che simili preghiere contengano un sottile atto di scaramanzia molto difficile da riconoscere e più ancora da confessare. Sembra che Dio non voglia guarire, proteggere o altre cose senza la preghiera dei suoi figli. E la misericordia di Dio a proteggerci e guarirci. Questo è vero per tutti. La salute e la protezione fanno parte della sua grazia. Dio interviene a favore di tutti, indistintamente. Anche di coloro che non credono in Lui e che conseguentemente non lo invocano. Guariscono tanto i bambini degli atei come quelli dei cristiani. Fanno un buon viaggio, tanto chi non crede come chi crede. Si obietterà che vi siano dei non credenti che si ammalano e muoiono, altri che hanno incidenti anche mortali, è vero. Ma anche i figli di Dio muoiono di malattia, così come di incidenti stradali. Significa che essi non hanno pregato? Più difficile è comprendere quando vi è la guarigione in modo inaspettato e miracoloso. A volte succede che vi siano guarigioni inspiegabili anche per i medici. Il tutto viene attribuito all'esaudimento della preghiera. Ma quante volte abbiamo udito che persone senza un minimo senso religioso sono guarite improvvisamente da malattie inguaribili? Quante volte uomini senza il minimo timor di Dio sono scampati miracolosamente in un incidente d'auto? Nella sua misericordia Dio permette miracoli perché Lui li vuole, senza che vi sia una richiesta da parte degli uomini. Non dimentichiamo che Egli fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Come riconoscere allora un esaudimento di una preghiera? Difficile dirlo. Nonostante ciò, rimane pur sempre valido l'atteggiamento di preghiera in ogni situazione. Senza però attribuire il significato di risposta alle preghiere ad ogni evento, quasi a voler sottintendere che Dio non intervenga senza le nostre richieste. È molto difficile comprendere se nella formula Dio esaudisce sempre le nostre preghiere si faccia leva sull'aggettivo nostre, mettendo così in risalto noi e la nostra spiritualità, o se piuttosto si voglia glorificare Dio per la sua misericordia. Il più delle volte è la prima ragione che ci spinge a ringraziare Dio quando Egli esaudisce le nostre preghiere. Sì, Dio non esaudisce sempre le nostre preghiere, come scrive sempre James E. Means. Sono stato in ospedale accanto a genitori credenti e li ho sentiti invocare con tutto il cuore Dio per la guarigione del figlio. Il bambino però è morto. Ci sono missionari che hanno affidato la loro vita alla protezione di Dio, ma che sono stati massacrati. Ci sono coppie che hanno pregato per il loro matrimonio, ma che sono giunte al divorzio. Che ne è stato delle loro preghiere? Ci è forse un cristiano che non abbia una sua privata tragedia da raccontare. Il mancato esaudimento da parte di Dio delle nostre preghiere è una realtà che dobbiamo riconoscere e confessare. Non è stato esaudito il servo fedele Mosè quando chiese di poter entrare nella terra promessa. E poiché insisteva con l'Eterno, dimostrando in tal modo di tenerci veramente, egli dovette confessare: ma l'Eterno si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Così l'Eterno mi disse: basta così, non parlarmi più di questa cosa. Deuteronomio 3:26. Non è stato esaudito Paolo, il quale, oltre la vita già travagliata che viveva, essendo afflitto da un costante dolore definito da lui stesso una scheggia nella carne, chiedeva comprensibilmente di esserne risparmiato. Dio, all'accolata richiesta dell'apostolo rivoltagli per Ben tre volte rispose che gli bastava la sua grazia. Giustamente Mintz si chiede, ci è mai stato un uomo di Dio che non si sia trovato nel corso della vita nella necessità di lottare contro l'impressione che Dio fosse stato ingiusto verso di lui? Si tratta di un'esperienza inevitabile. Sì, anche la mia esperienza è stata che Dio non voglia risolvere certi problemi, perché egli vuole che il giusto e l'ingiusto crescano assieme, Matteo 13:30. E un atto di maturità, e soprattutto d'onestà, ammettere che Dio ci incastri in certe situazioni, che ci imponga di mangiare quella minestra o saltare dalla finestra. È vero che leggiamo nella scrittura che Dio ha esaudito preghiere eccezionali, come quella di Jabez quando invocò il Dio di Israele dicendo: «Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini, e la tua mano fosse con me, e mi preservassi dal male sì che io non abbia a soffrire», e Dio gli concesse ciò che aveva chiesto, 1 Cronache 4:10, o quella di Giosuè che non tramontasse il sole, Giosuè 10:12. Ma non dobbiamo fare di questi esempi una norma. La norma di Dio è portare avanti il suo piano per ognuno di noi, non esaudire le preghiere degli uomini. Se queste sono in sintonia con il volere di Dio, bene. Diversamente, egli continua per la sua strada per quanto siano accorate le nostre suppliche. Ancora Mintz. Una delle caratteristiche distintive della mia natura umana sta nel fatto che preferisco appellarmi al potere di Dio piuttosto che desiderare il raggiungimento dei suoi fini. Voglio che egli manifesti il suo potere nella mia vita, soprattutto nei momenti di crisi. Lo prego di accordarmi una liberazione miracolosa. Lo supplico di risparmiarmi l'angoscia ed il lutto. Quando mi rendo conto che la sua saggezza persegue uno scopo che minaccia o distrugge il mio benessere, mi dispero e lotto contro il suo piano. Tutto ciò è umano. Nei momenti di crisi è più che normale essere sopraffatti dalle emozioni. Cercare però di ridurre al silenzio i sentimenti è sbagliato e dannoso. E umano reagire istintivamente contro ciò che a prima vista minaccia il nostro interesse. Non è umano invece mettere a tacere i nostri sentimenti, nasconderli agli altri, o peggio ancora ignorarli non confessandoli a se stessi e a Dio, solo per dare l'idea d'essere spirituali, o per il timore di non esserlo abbastanza. Essere spirituali non significa essere invertebrati, evadere dalla realtà. Significa lasciare che lo Spirito Santo agisca sulla nostra umanità con tutti i suoi limiti. Queste riflessioni non hanno lo scopo di scoraggiare la preghiera, né di suscitare scetticismo nei confronti di Dio. Esse sono tese innanzitutto ad invitare coloro che invocano Gesù Cristo ad essere realisti, senza cadere nell'accarezzare idee romantiche o piacevoli su un Dio che non esiste. C. È tutto da guadagnare nell'avere una visione realistica e nulla da perdere. La parola di Dio in riferimento alla preghiera è precisa. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15:7. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui, se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà. Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. 1 Giovanni 5:14-15. Gesù e gli apostoli hanno parlato della preghiera in modo positivo, in termini di sicurezza, dell'esaudimento. Ad una condizione però, che chiediamo secondo la volontà di Dio. In questa premessa sta l'equilibrio tra l'esaudimento e non di ogni richiesta a Dio. Dio non risponde sempre alle nostre preghiere, perché esse non sono sempre dettate da Lui o non sono sempre conformi alla Sua volontà. Di conseguenza, il saggio interrogativo d'ogni figlio di Dio non deve essere tanto chiedersi se e perché Dio non risponda alle preghiere, ma se ciò che egli domanda sia conforme alla Sua volontà. Ciò che deve preoccupare il credente non è tanto la mancata risposta alla preghiera, ma se egli sia sufficientemente nutrito della volontà di Dio espressa inequivocabilmente nella sua parola. Nella preghiera del Padre nostro Gesù ci ordina di pregare affinché la volontà del Padre nostro sia fatta. Questo è in definitiva lo spirito, il contenuto e il fine di ogni preghiera. Una volta conosciuta la volontà di Dio, la preghiera trova la sua ragion d'essere. Se sono gravemente malato, la mia prima preoccupazione non deve essere quella di guarire, ma di compiere la volontà di Dio. Se è volontà di Dio che io muoia di tumore, ogni preghiera in merito alla mia guarigione, pur essendo umanamente lecita, si trova ad essere contro la volontà di Dio. E non ci è nulla di più grave di una simile richiesta. Se invece ho, per lo Spirito Santo, la convinzione che sia una malattia per la gloria di Dio, la mia preghiera e il suo esaudimento onoreranno Dio. Sono conscio che scrivere, parlare ed avere dibattiti sulla preghiera sia piacevole e, a volte, gratificante. Quando ci si trova però in una situazione sgradevole, apparentemente inaccettabile, dalla quale si voglia uscire, allora le parole sembrano inefficaci. Sì, sembrano inefficaci. Perché, come disse l'Ecclesiaste, con cruda e spietata realtà, ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Ecclesiaste 1 e un quarto. Il punto è questo. Inutile negarlo. Ci sono situazioni irreversibili, come la morte di un figlio, un tradimento, una grave offesa. La vecchiaia con le sue conseguenze. In questo Dio non può fare nulla, proprio nulla. Il figlio non può tornare indietro. L'infedeltà è stata commessa, l'offesa è stata recata. La vecchiaia è inarrestabile. Dio può consolare chi ha perso un figlio, può ricreare il matrimonio, può riconciliare due persone offese, può anche far accettare l'invecchiamento. I fatti però rimangono. Ed inalterati. Sono sincero, ho detto più volte a Dio, sono in grado anch'io di rispondere in quel modo. Quando Gesù, il Figlio di Dio, nacque, decine e decine di bambini furono uccisi dal re Erode, a causa della sua intenzione di uccidere il re dei re. Non potevano gli eventi essere diversi? Alcuni storici stimano che il frate domenicano Tomás de Torquemada, in 15 anni del suo governo, abbia giustiziato oltre 100.000 vittime, delle quali più di 10.000 furono bruciate. Nell'ultima e accanita persecuzione degli ebrei, da parte di Hitler, 6 milioni di ebrei furono portati alle camere a gas. Perché Dio, con la sua potenza e con un atto d'amore, non ha fermato prima le stragi? Ha risposto Dio alle preghiere dei suoi figli che invocavano la liberazione dalla tirannia? Se la risposta è sì, perché le cose potevano anche andare peggio, allora facciamo come quella credente, che era felice perché era stata imprigionata e veniva picchiata sistematicamente una volta al mese. Ringraziava Dio per quella situazione perché a casa veniva sistematicamente picchiata ogni giorno. Se le cose devono essere intese così, rimango perplesso. Lasciare che le cose seguano il suo corso non ha nulla in sé di attribuibile al divino, secondo ciò che il termine divino rappresenta nell'immaginario collettivo. Anche per Dio, quindi, ciò che manca non può essere contato. Dobbiamo chinarci di fronte alla realtà, a volte a noi inspiegabile, se non vogliamo formulare preghiere assurde ed egoistiche, anche se in quell'inchino rimane uno spirito di adorazione verso un Dio che compie ogni cosa per il nostro bene, perché gli stiamo a cuore. 1 Pietro 5, 7. È vero che Cristo ha fatto miracoli, ha fermato il sole in cielo, ha diviso le acque del mare, e che Dio ha reso incinta una donna senza l'ausilio del gamete maschile, ma ciò ha fatto parte dei piani di Dio e della sua volontà. Questo non rientra però nella norma quotidiana. Così, è ingannevole e controproducente mettere spesso enfasi su vittorie e risposte che alcuni credenti hanno realizzato, con l'intenzione di dimostrare che Dio sia sempre pronto a compiere cose straordinarie in nostro favore. Dobbiamo accettare che la normale volontà di Dio sia che noi ci troviamo in difficoltà, che abbiamo ostacoli insormontabili, che ci troviamo incastrati in situazioni da cui non usciamo, e che soffriamo per Lui. Se perdo la vista, il fatto scritturale che Gesù ha ridato la vista ai ciechi non mi garantisce che Egli compia verso di me un miracolo così che io recuperi la vista. Con questa premessa ed un simile atteggiamento d'accettazione e sottomissione alla volontà divina, le nostre preghiere, guidate e ripiene della conoscenza della parola e dello Spirito Santo, saranno esaudite. Se siamo disposti a soffrire e ad essere messi a morte ogni giorno per amore e a causa di Cristo, saremo liberati da desideri malsani ed egoistici. E nella sofferenza realizzeremo di non essere soli. I nostri sentimenti di prostrazione toccano così profondamente Dio che si unisce a noi nel nostro pianto di straziante dolore. Io penso che l'ultima lacrima asciugata sarà quella che Dio asciugherà dai suoi occhi. Fino a quel giorno, il nostro Dio piange con noi. Da un punto di vista umano sarà poco consolante, perché quando soffri sei tu che soffri. Il cuore conosce la sua propria amarezza. Proverbi 14 e 10. Ma per la grazia di Dio succede che dopo aver attraversato la valle arida e deserta della disperazione e dello sconforto, ci rendiamo conto che sotto di noi erano le braccia eterne a sostenerci. Deuteronomio 33, 27. Eravamo sorretti da Dio e non lo sapevamo. Non sempre le preghiere che rivolgiamo a Dio sono esaudite, ma le sue braccia eterne però sono costantemente sotto di noi a sorreggere la nostra debole anima, che con riconoscenza può affermare: poiché la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Salmo 63, 3. Un tema del genere non può ignorare un altro aspetto molto delicato e spesso non trattato, ma che non può essere ignorato. Quando cioè Dio esaudisce i nostri desideri o richieste di preghiera, che non rientrano nella sua volontà, o che non sono buone per noi. Il caso più eclatante è, senz'altro, quello della richiesta del popolo di Israele, rivolta al profeta Samuele allo scopo di avere un re. L'Eterno stesso ne era dispiaciuto, ma si rivolse al profeta Samuele con queste parole: «Ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Si comportano con te, come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei». 1 Samuele 8, 7, 9. Il popolo di Israele ebbe il suo re. Al momento della conferma dell'elezione, Samuele disse: «Ora fermatevi e guardate questa cosa grande che l'Eterno farà davanti ai vostri occhi. Non è forse il tempo della mietitura del grano? Io invocherò l'Eterno, ed egli manderà tuoni e pioggia. Così comprenderete e vedrete che il male che avete fatto chiedendo per voi un re è grande agli occhi dell'Eterno». 1 Samuele 12, 16, 17. Vennero tuoni e pioggia, e tutto il popolo quindi disse a Samuele: «Prega l'Eterno, il tuo Dio, per i tuoi servi, affinché non abbiamo a morire, poiché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati il male di chiedere per noi un re». Samuele rispose al popolo: «Non temete, anche se avete fatto tutto questo male, non lasciate di seguire l'Eterno, ma servite l'Eterno con tutto il vostro cuore». 1 Samuele 12, 19, 20. È molto difficile per noi riuscire ad armonizzare appieno i progetti di Dio con la volontà dell'uomo, ma dobbiamo inchinarci di fronte al fatto che Dio a volte esaudisca le preghiere delle persone, anche se queste non sono secondo i suoi progetti iniziali. Un altro esempio che Dio risponda anche ai desideri malsani degli uomini è l'episodio dell'indovino Balaam. Balaam chiese all'Eterno se poteva andare dai servi di Balak per maledire il popolo di Israele. L'Eterno gli rispose negativamente. Balaam chiese una seconda volta all'Eterno se poteva andare, e a questo punto leggiamo: «E Dio venne di notte a Balaam e gli disse: se questi uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, ma farai solo ciò che io ti dirò». Tutto contento, Balaam si incammina per andare da Balak. Lungo il percorso, l'Eterno cerca di fermare l'indovino, costringendo la sua asina a fermarsi. Ecco il seguito dell'episodio. Allora l'Eterno aperse gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata in mano. E Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo dell'Eterno gli disse: Perché hai percosso la tua asina ben 3 volte? Ecco, io sono uscito come tuo nemico. Perché la via che batti è contraria al mio volere. L'asina mi ha visto e mi ha schivato ben 3 volte. Se non mi avesse schivato, io ti avrei certamente ucciso lasciando in vita lei. Allora Balaam disse all'angelo dell'Eterno: l'ho peccato, perché non sapevo che tu stavi sulla strada contro di me. Ora perciò, se ciò che sto facendo ti dispiace, tornerò indietro. Ma l'angelo dell'Eterno disse a Balaam: va pure con quegli uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò. Così Balaam andò con i principi di Balak. Numeri capitolo 22. L'Eterno Dio non approvava ciò che Balaam stava facendo, ma ha permesso all'indovino di essere esaudito nella sua concupiscenza. Infatti Balaam andò solo dopo il benestare dell'Eterno. Altri episodi descritti nella parola di Dio mostrano come l'Eterno Dio esaudisca preghiere che, dal nostro punto di vista e non solo da questo, non sarebbero da esaudirsi. L'Eterno esaudisce la richiesta del popolo di Israele di poter vedere la terra promessa prima di entrarvi, e causa questo esaudimento, il popolo di Dio vagò nel deserto per 40 anni. Deuteronomio 1:19-40. Il re Saul chiede ad una medium di poter parlare con il profeta Samuele morto da anni, cosa, questa, vietata categoricamente da Dio. L'Eterno Dio concede a Samuele di parlare con Saul. Ezechia, il re della tribù di Giuda, chiese che la sua vita fosse allungata, e l'Eterno lo esaudì. In questo periodo, egli generò Manasse, il quale si sedette sul trono del padre regnando senza alcun timore di Dio. Di lui, la scrittura dice, Manasse versò pure moltissimo sangue innocente, fino a riempire Gerusalemme da una estremità all'altra, oltre al suo peccato di far peccare Giuda, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno. 2 Re 21 e 16. Questi episodi sono tratti dalla vita ordinaria degli uomini, ma ciò che più stupisce è quando l'Eterno Dio esaudisce le richieste del diavolo e dei suoi emissari. Nel libro di Giobbe leggiamo che Satana chiede all'Eterno di colpire Giobbe, prima con la morte dei suoi figli, poi con una piaga. L'Eterno lo esaudisce ambedue le volte. Nei Vangeli leggiamo che i demoni pregano Gesù di poter entrare nei porci e Gesù glielo concede, Marco 5:12. Difficile comprendere ogni cosa, ma anche gli avversari di Dio evidentemente vengono esauditi in cose per noi molto discutibili. E questo perché tutto rientra nei piani di Dio, come leggiamo nel libro dei Proverbi. L'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. E ancora, anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode, e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76, 10. Il Dio Trino è, e rimarrà sempre sovrano sul male. Queste riflessioni portano ad una conclusione. È vero che Dio non esaudisce sempre le nostre preghiere, ma a volte, inaspettatamente, otteniamo quello che chiediamo. È vero che, a volte, attribuiamo la mancanza di un esaudimento alla poca fede o spiritualità, soprattutto in circostanze che riguardano gli altri e non noi. Ma dobbiamo anche tener presente che non tutte le preghiere esaudite siano per il nostro bene o secondo la volontà di Dio. Ricordo ancora vivamente quella donna che, piangendo, mi confessava di aver chiesto a Dio di guarire a qualsiasi costo suo figlio da una terribile malattia. Il bambino non morì, ora la madre si tormentava per la richiesta fatta e per il suo esaudimento, perché portava un peso che la stava schiacciando. In certi momenti, l'esaudimento di una preghiera nel campo degli affetti, della salute, del benessere, di un affare, sembra la cosa più bella di questo mondo, sembra di raggiungere il massimo della felicità, ma dopo, caduti gli altarini, i castelli in aria, il lato romantico, si scopre di aver domandato male. Giacomo 4:3. Ne sanno qualcosa coloro che hanno perseguito con tutte le loro forze il sogno di un matrimonio, in seguito fallito miseramente, o coloro che sono riusciti ad avere dopo molte gomitate a destra e manca una eredità, rivelatasi in seguito come rendisse Geremia, simile ad un leone nella foresta, che lancia il suo grido contro Geremia 12:8. Questi particolari dovrebbero spogliare l'orgoglio di essere sempre esauditi da Dio. Per quanto mi riguarda, rivolgo pochissime preghiere con richieste a Dio. Ho dei desideri, certo, come ogni essere umano, ed anche forti, ma che riposano serenamente, in attesa di riceverli. Dopo aver esaminato come Lui opera, dopo aver preso atto delle benedizioni di cui sono circondato ogni giorno, dopo aver compreso la mia innata malvagità, dopo aver preso atto di come sia stato equipaggiato in ogni cosa per vivere abbondantemente la vita cristiana, io ho scelto e preferisco lasciare che il mio Padre Celeste mi dia, ed operi, come crede, bene. Una mia preghiera sbagliata potrebbe recarmi inutili dolori, se non addirittura dannosi piaceri. Fidarmi più di Lui che del mio discernimento è stato e sarà l'atteggiamento centrale della mia vita. Febbraio 2003. Ellero.